Ma con quanta brutalità ho cacciato via questa canzone, non lo so neanche io, veramente, veramente una brutalità incredibile. E pensate, ragazzi, tante volte quando mi capitava di ascoltare la radio di mattina presto, tipo gli speaker alle 6, alle 7, no? E gente che si sveglia alle 5, sicuramente anche prima, per prepararsi, e mi sono sempre detto: ma se gli scappa la cacca? Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no? Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Lo sbarco sulla luna. Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, o te sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Il bello è che rido goduriosamente quando faccio questa cosa, questi bellissimi assets professionali che costruiamo qui a Runtime Radio, e però comunque ogni volta che la guardo mi fa sempre ridere questa cosa, che noi facciamo gli assets che magari non a tutti piacciono, ma a noi ci piacciono, perché secondo me una radio alternativa deve avere anche gli assets alternativi, e quindi invece di fare le cose ultra specializzate tecnologiche, se mettiamo davanti a un microfono ognuno canta a cappella a cazzo di cane e poi scureggete e via dicendo. E anzi, ci siamo tenuti, perché alla fine ci siamo anche tenuti. Detto questo, perché l'intro dell'intro dice, cioè, io veramente mi sono sempre domandato, tutti quelli, no, che sono lì, no, immaginate una radio alle 7 di mattina, anche quelle professionali non è che è a pieno regime, no? Saranno un 2 o 3 dentro, no? Il regista, quello che fa la parte tecnica, lo speaker, qualcuno in redazione che gli passa i fogli, le cose da dire, e poi lo speaker. Ma lo speaker, no, se sta là a un certo punto, perché comunque si è svegliato tardi per tanti motivi, gli scappa la cacca, come fa? Un gran casino, no? Penso che sia veramente un gran casino. E infatti, per mentre che stavo, insomma, finendo di allestire il mixer, mi sono reso conto che questo è un pericolo che incombe su di me oggi, perché con Michela ci siamo svegliati più tardi del solito, perché stanotte abbiamo dormito male per tanto freddo e umidità che abbiamo avuto, e quindi ogni tanto ci svegliavamo, e quindi alle 6 e mezza Michela dice: oh, guarda, c'è la diretta, porca puttana. E allora niente, abbiamo fatto colazione in fretta e in furia, e potrebbe succedere che a un certo punto non andare cesso, insomma, quindi non potrebbe anche succedere. Se succede, come, che cosa succede? Non lo so, veramente è una cosa che, però è bello, insomma, parlare di queste cose all'inizio giornata. Quindi salutiamo anche DJ Joker, Davide, Michela chiaramente, e Walter Sbano, che vengono subito, insomma, in canta a cappella di cane, dice Francesco Lobby Frontali. Bene, allora ragazzi, due cose prima di iniziare. Non so se riuscirò a portare a termine tutta l'ora, perché non, argomenti veri non ne ho, però, cioè, ce ne ho due, però insomma, detto, non sono proprio un fiore questa mattina, devo dire, sono svegliato veramente male. Però voglio dire, il 6 febbraio, intorno alle 16, il 6 febbraio è il mio compleanno, sono 50 anni, e intorno alle 16 ho deciso di fare, abbassare sta musica che è un po' altina, e intorno alle 16 farò questa live, una sorta di fare il compleanno insieme a Runtime, insieme a voi, con Michela, con le persone che che mi ascoltano, chi vuole partecipare e via dicendo. E mi piacerebbe, poi oggi preparo uno spottino, magari così lo mettiamo su tutti quanti i podcast fino ovviamente al 6 febbraio. Mi piacerebbe che partecipaste tutti in un modo o nell'altro, anche se non potete magari partecipare ascoltando via dicendo, magari facendo delle domande, cioè chiedendo insomma delle curiosità o inviando un pensiero, un qualcosa, una riflessione, un qualsiasi cosa da mandare in trasmissione e poi ovviamente da ragionarci sopra, insomma, cioè magari comunque da rispondere oppure da dare magari quella spiegazione, togliere quella curiosità, oppure semplicemente magari appunto se è uno spunto riflessivo magari farci anche un piccolo ragionamento sopra, e sarebbe carino, proprio perché comunque in questa diretta diciamo che piacerebbe raccontare un po', no? Piacerebbe magari raccontare un po', non tanto, dice qualcuno dice levarti i sassoni dalle scarpe, ma io quelli mi sono sempre levati, quindi non è quello il problema mio, più che altro è proprio una cosa così carina da fare insieme, mi piacerebbe insomma fare questa cosa. Quindi se avete voglia insomma di mandarmi un audio, una domanda, qualsiasi cosa, se in audio sarebbe anche meglio, così è più gradita, è più gestibile anche la questione, potete mandare ovviamente il vostro audio a runtimeradio@gmail.com, mettete sul soggetto, insomma sull'oggetto della mail, mettete, che ne so, per il compleanno di Simone Pizzi, così almeno se, insomma alla fine riusciamo a capire un po' di che cosa sta succedendo. Insomma, questo giusto. Se vi fa piacere, io vorrei fare questa cosa e secondo me sarà anche carina, perché appunto racconterò cose, magari affronterò magari alcuni temi, soprattutto magari farò anche sentire la musica che ho amato insomma durante questi 50 anni e anche insomma questi 12 anni di podcast insieme a Michela e insieme comunque a persone che poi alla fine sono diventate amici importanti e altre che già lo erano e via dicendo, insomma. Vabbè, se vi fa piacere questa cosa, insomma, mi piacerebbe fare quest'oretta, due orette insieme a voi, magari, insomma, a chiacchierare un pochino e magari alternarsi, parlare, insomma, anche se qualcuno vuole partecipare come speaker, mi fa assolutamente piacere. Nel frattempo c'è un omaggio, giusto così, l'avevo promesso, e quindi questo qua, questo brano, non certo uno a caso, è il primo che mi capitava, cioè che mi è capitato in ordine alfabetico, però è un omaggio che faccio a Leo Vargion. Bene, questa si sfuma così proprio, da sola si sfuma la canzone, si sfuma da sola e ce leva insomma anche l'incombenza di doverla sfumare, perché canta, pare brutto insomma sfumarla mentre canta. Comunque l'omaggio, perché chiaramente questi sono gli Amorphis con Good of Deception, ok, una bellissima canzone che ho trovato, a me piacciono poi tra l'altro, devo dire la verità, quindi l'ho scaricati anche volentieri, però l'omaggio è per Leo che giustamente che è, madonna mia che schifo, ah ok, scusa, è sempre riferito a South Park. Vabbè, spero che vi sia piaciuto, che abbia gradito Leo, che insomma vedo ci ha raggiunto in chat. Tra l'altro durante la canzone c'era un'altra cosa che dovevo ricordare e che volevo dire, e è stato meraviglioso. Queste sono le cose che mi fanno strappare i vestiti di dosso proprio, cioè ha detto durante la canzone, mi è venuta in mente una cosa, ah cazzo mo la dico, me la sono scordata, incredibile, cioè una cosa fuori di testa. Così come fuori di testa c'è una cosa che, allora ragazzi, ieri c'è stata una notizia, mentre che io e Michela, insomma, quando facciamo colazione o pranzo, diciamo Alexa dici le notizie, perché non proprio accende la televisione, sentire, e quindi c'è tutto un condensato di notizie tra Sky, Radio Capital, La 7 e via dicendo, insomma c'è tutta una sorta di formato podcast, tutte quante le notizie. E più poi te legge i titoli dell'internazionale, no? della rivista, insomma, che è in edicola, te legge i titoli, insomma, che poi è una cosa ridicola perché non si capisce niente quando legge i titoli. Comunque, vabbè. E c'è stata una notizia che veramente, ragazzi, mi ha fatto zompare sulla sedia, perché io, voi lo sapete, no? Ci sono delle cose era come Pertini, non lo ricordate Pertini? A Pertini, quando tu gli dicevi la libertà, tutti devono esprimere la libertà, diceva là pure i fascisti, no! No! I fascisti no! Capito? È la stessa cosa. Cioè, una cosa che io non ho mai accettato il giorno in cui, ormai, insomma, diverso tempo fa, credo un decennio, forse anche di più, non solo gli è stato permesso ai discendenti dei reali d'Italia di ritornare in Italia, ma addirittura di farli diventare dei personaggi, di farli diventare dei personaggi televisivi. Li abbiamo portati a Sanremo, abbiamo fatti cantare, abbiamo fatto un'operazione simpatia, no? Nei confronti di una famiglia di traditori, fondamentalmente, che avrebbe dovuto fare la stessa fine che hanno fatto gli zar in Russia, anche se lì forse con i bambini hanno un po' esagerato, diciamo così, perché chiaramente, insomma, alla fine ammazzare i bambini non c'ha veramente senso. Però, insomma, diciamo, ecco, avrebbero dovuto fare, invece che dici, sai, mo te mando in esilio, te mando sottoterra, perché, insomma, alla fine voi sapete che non soltanto questi, dice, ma sì, dice che c'è questo qua, uno che dice di essere duce, ma pare che, insomma, oh, è uno, pare che è bravo, io mi sa che questi qua sì, gli do fiducia, ma sì, dai, damogli fiducia. Ma io poi dice, ma guarda che qui questo ha messo sul fascismo, ma io non è che avevo proprio capito che questo vuole fare le cose autoritarie, insomma. E vabbè, dai, però oramai c'è sta, dai, lascia perdere, insomma, duce, dai, poi sai, Dio, patria, famiglia, sai, noi siamo reali, no? Quindi, insomma, alla fine il re, insomma, il re che fa? Dice, no, ma questo, insomma, sì, alla fine scoppia la guerra, che poi è una guerra che dalla fine praticamente a 20 anni tra i più tristi e probabilmente sanguinosi della nostra storia. E giustamente il re dice, oh, qua la guerra, stanno arrivando americani, stanno arrivando i nazisti, stanno arrivando tutti, io ragazzi, per non sapere né leggere né scrivere, dato che sono re, no, e ho la responsabilità e devo stare, insomma, me ne vado, cioè, ma in che senso se ne va, se spo, no, proprio me ne vado, scusi, durante la notte dentro la carrozza, arrivederci, grazie, senza sapere né leggere né scrivere, perché sei un infame, e sei un infame tu, e la tua infamia chiaramente deve necessariamente essere ereditata dalla tua famiglia, sei un infame, non è che tu puoi geneticamente generare delle persone meno infami, no? Sì, lo puoi, chiaramente non c'è un rapporto genetico nell'infamia, però in questo caso per rimarcare, per dare un po' di gravità a questa cosa, diciamo che se tu sei cresciuto nell'infamia è chiaro che sei stato educato anche con l'infamia, e quindi si è dato, e quando poi alla fine, insomma, diciamo, c'è stato il referendum tra monarchia e repubblica, probabilmente, perché poi qui, insomma, sai, stiamo sempre a parlare degli italiani, no? Di quel popolo che comunque c'ha un provincialismo religioso intrinseco, no? Quelli, insomma, della parrocchia del paese, no? E quindi io ci credo anche che alla fine in realtà aveva vinto la monarchia piuttosto che la repubblica, e che probabilmente c'è stato un broglio elettorale che ha sancito il destino della nostra storia. Io sono abbastanza convinto che sia così, ma è giusto che sia così, e quindi è stato detto, tu e i tuoi, la tua, insomma, genealogia, ve ne andate, state in esilio e non potete più entrare in Italia. E ti abbiamo fatto un favore, perché tutto sommato bisogna riconoscere che ti abbiamo fatto un favore, perché in quel periodo di grossa incazzatura, probabilmente anche di vendetta politica, vedi, insomma, quello che è successo a Mussolini, no? Cioè, in un altro contesto, chiaramente, le cose avrebbero dovuto andare in un'altra maniera, no? Giustamente. Però poi, quando tu senti i fascisti che dicono, ah, vedi, siete uguali, ah, per capito, un piccato merduce. Ma diciamo che in quel sistema, insomma, di vuoto, di potere, in quell'anarchia che si era sicuramente creata, in quella rabbia sociale che si era sicuramente creata per insomma, questo personaggio e per quell'altro, l'amico suo che ci ha messo sopra, alla fine, insomma, ci può stare. E quindi a re è andata bene, dai ragazzi, è andata bene, avrebbero potuto, insomma, impiccarlo, strozzarlo, spararlo o decapitarlo, insomma, cioè, in qualsiasi cosa avrebbero potuto fare. Il re, che è un infame, giustamente, avrebbero dovuto fare questo, insomma, e invece si è scelta, diciamo, una via democratica, diciamo, che è quella dell'esilio. Cioè tu sei ingombrante all'interno della nazione per quello che tu iconicamente rappresenti, e quindi ti mando in esilio in un altro paese e non puoi più rientrare, non puoi rientrare te, non puoi non entrare i tuoi figli, perché è giusto così, se no arrivate e potete benissimo accampare, anche se oggi mi farebbe ridere, insomma, una cosa del genere. Comunque, diritti, no, sulla proprietà del governo italiano, insomma, ecco, diciamo così. E questa cosa, voi la sapete, è una cosa che per me è rimasta. Io sono cresciuto con questa cosa che il re era un infame, capito? E quando io mi è capitato di vedere il principe Emanuele Filiberto a Sanremo che cantava "Viva l'Italia, io amo l'Italia", ma se tu non l'hai manco mai vista l'Italia, no? Li mortacci tua, no? Ma chi te ci ha fatto ritornare? Ma comunque non è questa la notizia che veramente mi ha fatto incazzare, naturalmente. Questa si chiama Never Return, sono i Carvings, non l'ho scritto in chat perché non c'ho tempo, non posso staffa tutto io, hai capito? E quindi, insomma, un po' di metal oggi, cioè, poi non so, in realtà ho scelto quattro brani a caso, ovviamente, con tre metal e uno hard rock, però potrei anche avermi confuso, perché praticamente ho dimenticato di svuotare la vecchia playlist, e quindi forse, cioè, magari dentro c'è qualcosa che abbiamo già ascoltato. Ma comunque, veniamo a noi. C'è la notizia di ieri, è che sti eredi al trono che è lo stesso trono, meriterebbero lo stesso trono, insomma, di South Park, mentre che giocano a World of Warcraft, reclamano i gioielli della corona. Reclamano i gioielli della corona, dice che è roba loro, e si tratta di non si sa quanti migliaia di gioielli, collane, ammennicoli, pezzi di cazzo, e insomma, stanno lì e praticamente reclamano i gioielli della corona. Dice che è roba loro, bisogna che gliela ridiamo perché gli appartiene. Tra l'altro, io poi alla fine mi sono sempre domandato, no? Al di là delle vecchie monarchie, no? Dove bene o male un re veniva addestrato, no? Cioè, nel senso, per essere un comandante, per essere un re, ma anche per essere un guerriero, cioè, nel senso, piavi schiaffi questo quando, quando doveva diventare re, no? Cioè nel senso stava là, cioè fino a che non diventava qualcuno, insomma alla fine difficilmente un re insomma debole, incapace o roba del genere andava al trono. Invece poi le monarchie moderne, tra virgolette, questo problema non ce l'hanno, no? Un po' la stessa cosa al discorso della monarchia inglese, no? Cioè le monarchie moderne si basano proprio su questa questione, soprattutto dalla monarchia francese in poi, si basa sul fatto che è per diritto che loro stanno lì e quindi non devono dimostrare niente a nessuno e tutto è roba loro, no? Quindi mi domando sempre alla fine un re, no? Quando un re dice questi sono, vabbè, i gioielli della corona, è ok, della corona si intende, della monarchia, ma quando uno dice no, quella roba è della nostra famiglia, mi viene sempre da dire, ma tu quelle cose, quel cucchiaio d'argento, mettiamo, come è diventato tuo? Cioè nel senso non è che tu sei una persona normale che vai lì e compri delle cose e diventano tue, no? Cioè le hai acquisite in qualche modo e per qualche ragione, no? Fondamentalmente. E tra l'altro, visto che sei un monarca e che quindi sei anche un po', insomma, diciamo, anacronistico ed è pure controproducente, insomma, che stai in mezzo ai coglioni, sarebbe carino invece che non rompi il cazzo dicendo che quella roba è tua, ma che la consideri come una sorta di risarcimento della tua infamia nei confronti del tuo paese, che se ne è appropriato per ragioni storiche, magari anche solo espositive, oppure se io avrei squagliato tutto, tranquillamente, io se c'era loro avrei squagliato tutto, avrei fatto lingotti per il deposito nazionale, chiaramente, perché sennò qualche lingotto ci scappa fuori, mo non voglio dire, insomma, però sicuramente poi ci saranno anche dei pezzi pregevoli, no? Come ricordate, no? C'è il discorso della regina d'Inghilterra che ha il gioiello, il diamante più grosso del mondo, che insomma è una cosa particolare, no? Cioè, probabilmente magari all'interno di questo tesoro della corona italiana sicuramente saranno anche pezzi importanti. Non mi sono neanche andato a documentare, devo dire la verità, perché mi fa schifo soltanto il pensiero. A me aver sentito che questi reclamano, poi. Cioè, porca puttana, no? Cioè, nel senso, a parte che io non credo che gli manchi qualche cosa, perché io poi mi sono sempre domandato, ma durante questi 70 anni che questi sono stati espulsi dall'Italia, come hanno campato? Sicuramente con un indennizzo che gli abbiamo dato noi, sono sicuro di questo, quindi alla fine non solo li abbiamo dovuti mandare via e non li abbiamo ammazzati, ci saranno pure costati, capito? Cioè, li abbiamo pure pagati a questi, capito? Perché insomma in qualche maniera non è campato, no? Mo al di là del che c'hanno sì le proprietà, le cose, ma io espropriazione totale. Ma poi quando arriva, no, tipo Emanuele Filippo, principe di qua, principessa là, ma principe di che? Ma non esistono più questi titoli. Vaffanculo, pure la stampa, no, che ci sguazza su sta merda. No? Ma che è? Ma che è Cenerentola? Ma è il mondo di Cenerentola? Ma questi sono criminali di guerra, questa gente che è scappata di fronte alla gente che se moriva di fame. Sotto i bombardamenti, sono scappati, sono infami. Cioè, non si sa neanche a discutere. E la notizia continua dicendo che giustamente alla Banca d'Italia hanno provato a fare una mediazione. Hanno intavolato una trattativa per fare una mediazione su. Porca puttana, io cioè. Ma come ti metti a fare la mediazione con una famiglia di infami? Su una cosa che non si sa manco se gli appartiene o no, che dovresti avere come risarcimento danni per tutto quello che hanno creato. Cioè io è una cosa che non. Raga, sarò strano io, perché forse è una cosa che veramente. La guerra mi fa pensare a mio nonno, a tutte le esperienze che hanno fatto, le sofferenze, la guerra partigiana e tutto quanto. E quando io penso a queste cose, mi incazzo. Raga, mi incazzo, io sono tutto detto, sono come Sandro Pertini su sta cosa. Cioè, no, per fascismo. È la stessa cosa. Cioè, io questi la trattativa per mediare, una trattativa fallita, perché questi vanno. È roba loro, la vanno, capito? Cioè, oh, è roba nostra. Ma i carabinieri. Col coso, col macete per finire l'opera che non è mai stata compiuta, per carità, insomma, non sia mai. E vabbè, avete capito, insomma, che questo è un argomento che reputerei sensibile. Reputerei sensibile. Tanto questa era Sooner That You Know. Carina, carina. Stasera, stamattina, anzi, queste canzoncine. Intanto salutiamo che ci hanno raggiunto, ovviamente, Gianluca, Vincent Valentine, vabbè, DJ Joker già c'era, vabbè, Francesco Leo Vargion giustamente dice, un rape a funzionare, dovrebbero costruire un laboratorio, perché sennò è soltanto uno stronzo, ma non c'è neanche bisogno che debba funzionare un rape, cioè non abbiamo chiesto e non ci interessa neanche, no? Detto questo, tra tutti quanti i vari commenti, Gianluca dice che alla fine il tesoro è poca roba, insomma non ci scappava neanche il lingotto, non lo so, però sì, tu l'hai visto, hai detto che... Però ecco, secondo me la dichiarazione interessante è quella di Francesco, perché dovevano squagliare tutto l'oro e farle delle supposte. Rivolete l'oro indietro? Certo, accomodatevi, ma ad una condizione, ecco, questo forse sarebbe stato l'unica cosa che... E poi dopo le avresti dovuti tenere dentro una stanza, perché senza gabinetto, cioè, quindi dovevano cagare per terra, perché poi dopo qualcuno doveva riprendersela, insomma, sta roba. Comunque, vabbè, dai ragazzi, avete capito che sono temi delicati, e che è vero che probabilmente non c'è mai stata una pacificazione ideale, morale, nessuno si è mai messo a tavolino per dire vabbè ragazzi, vediamo il pro e il contro di qualsiasi cosa, e ognuno si prenda le proprie responsabilità, insomma, sì. Però c'è un'altra cosa che a me mi fa morire questi giorni, perché dice vabbè, venti di guerra, e i russi cattivi. Ah, i russi sono cattivi, cioè abbiamo, insomma, voi sapete cosa penso dei russi, insomma, in generale, no? Che secondo me poi alla fine senza diciamo un controllo, diciamo anche etico in generale, il russo c'ha sta tendenza a essere: io sono russo, l'impero prussiano, io faccio del qua e faccio del là, no? Però è anche vero che la Russia non è un alleato, per quanto, insomma, i rapporti siano tra virgolette civili, però non è un alleato, non fa parte di una coalizione così come la NATO, e tra virgolette legittimamente io ho anche un po' roder culo che la NATO arrivi ai suoi confini. Tant'è che quando c'era l'Unione Sovietica, l'occupazione di tutte le nazioni intorno non era tanto per espandere il comunismo in sé, del quale, insomma, gli interessava e non gli interessava, anche perché la loro influenza loro ce l'avevano anche a prescindere dall'occupazione militare, ma serviva per creare una sorta di blocco cuscinetto che impedisse, voglio dire, alle nazioni NATO, insomma, di avvicinarsi troppo, tra virgolette, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale in particolare, insomma. E questo può essere un atteggiamento discutibile, il quale, insomma, ovviamente noi abbiamo sempre criticato: non si influenza la politica di una nazione, non si fa un'occupazione militare per una ragione che per te ha un senso strategico, e quindi è una cosa che anche io, cioè, nel senso, però è vero pure che a un certo punto, nel momento in cui le cose hanno preso una loro regolarità, diciamo, no? Nel senso che la conformazione geopolitiche sono radicalmente cambiate, comunque esiste sempre questa cosa che alla Russia di per sé è legittimamente incazzata del fatto che tutta questa storia, e poi arriviamo un attimo anche a capire che cosa muove questa storia, in realtà non è nient'altro che un grande carrozzone della NATO per prendere ulteriormente posizione nei confronti di un paese che è comunque un concorrente, che è comunque un non alleato e che ha comunque una forza militare e strategica importante. Quindi alla fine, al succo di tutto questo, non è cambiato un cazzo da questo punto di vista. Cioè, i presupposti per i quali si muovono certe cose sono gli stessi dei 70 anni fa. E chiaramente, giustamente, a uno che non è un alleato, non è allineato, è comunque un paese che sa di avere una forza militare strategica importante, questa cosa di vedere il carrozzone fatto a fa le moine così, ah ma noi vi aiutiamo, Ucraina, vi vogliamo bene, senza considerare che questa cosa ha delle conseguenze, cioè deve avere delle conseguenze, non può non avere delle conseguenze, no? Chiaramente. E così come giustamente anche l'invasione da parte della Russia in Ucraina può avere delle conseguenze, ma sono delle conseguenze più bilanciate rispetto a quelli che so che è il vicinato, ossia l'Europa, nei confronti di un partner da un certo punto di vista sulla distribuzione dell'energia, del gas e tutte quelle cose che comunque sono fondamentali per la vita dell'Unione, cioè quindi ovviamente per avere insomma un maggiore equilibrio sul discorso dei costi ovviamente energetici, che altrimenti insomma potrebbero sicuramente creare dei problemi. Però al di là delle motivazioni più strettamente specifiche, che sono comunque fondamentali, perché probabilmente anche in Uganda, in Muzumba o in Congo belga, probabilmente in questo momento c'è una guerra della quale nessuno se ne fotte, o probabilmente ci saranno centinaia di focolari ai confini tra scontri etnici curdi contro quelli, però non l'Ucraina. L'Ucraina è un paese che va assolutamente difeso dall'alto della sua democrazia, ricordando insomma che sono paesi che hanno preso una deriva nazistoide oramai insomma in maniera abbastanza conclamata, quindi tutto sommato, no? Cioè noi ce la prendiamo con Putin, ah ma Putin è un fascista, e questi che so? Però loro se la sono costruita bene la cosa, perché tramite i social media, tramite tutto un lavoro insomma anche di propaganda, insomma la ragazzina con gli occhi azzurri e via dicendo, alla fine tutti quanti hanno pensato che questa povera Ucraina, che insomma sta lì e dice no mannaggia la miseria, però, e secondo me ci deve essere un motivo al di là del fatto stesso che insomma noi siamo i paladini della giustizia, per cui gli americani ancora una volta, e non gli è bastato e non gli basterà mai, ancora una volta sotto amministrazione democratica, perché ricordiamoci questo, perché giustamente come dice Walter Vannini, i repubblicani le peggio cose le pensano, i democratici le peggio cose le fanno, perché tutte le più grandi guerre importanti avevano un presidente democratico, a partire da Kennedy, quindi Kennedy, Clinton, Obama, tutta gente che si rivolgeva al mondo progressista sulla pace, volemo se bene e tutto, e poi boom, guerre subito, perché si vede che probabilmente quell'area pseudo progressista americana, per sentirsi legittimata, deve far vedere che è capace a tirare le bombe. Probabilmente c'hanno sta cosa qui, insomma, no? E quindi niente. Biden, che è il presidente migliore per far vincere nuovamente Trump, ha mobilitato ovviamente le forze armate. E questo è importante. Che ne dite? Vabbè, insomma, stamattina sono un po' accalorato, non va a prendere, insomma, sapete che io voglio bene a tutti, voglio bene a tutti quanti. Però insomma, in generale, tra l'altro Michela dice, vabbè, grande delusione Biden, ma in realtà il problema è stata l'illusione, che in quel momento era l'unica salvezza, nel momento in cui Sanders non è riuscito a imporsi nelle primarie, e secondo me prima o poi i democratici dovranno farlo sto salto, tanto perse per perse le elezioni, a quel punto mandaci uno veramente di sinistra e vediamo se l'America in qualche maniera prima o poi potrà cambiare, anche se poi lì il problema è un sistema talmente incarcitrato che bisogna vedere poi quello che te fanno fa o quello che non te fanno fa, insomma, giustamente. E Francesco dice, per questo ci voleva Berlusconi presidente, così almeno con la Russia stavamo a posto. Ma come ho detto, ho risposto anche in chat, in realtà noi stiamo a posto comunque, perché noi storicamente siamo amici di tutti. Infatti, se vedete, uno dei paesi con una certa rilevanza dal punto di vista occidentale che ha avuto meno problemi con il terrorismo e via dicendo, in generale è sempre stato l'Italia, perché comunque noi eravamo amici di tutti, noi non facevamo un torto a nessuno, che è la posizione più democristiana possibile, però in un certo senso strategicamente ha funzionato, diciamo così. Ma quindi per evitare la guerra serve il Trump bis, e giustamente questo Leo, e giustamente Vincent gli dice, dati i suoi rapporti con la Russia, penso proprio di sì, sai. Beh, in effetti, insomma, è un po' questo il discorso. E tra l'altro, io l'ho sentito parlare recentemente, Biden è un po' tipo Richard Benson, cioè parla in inglese come dice, cioè si impiccia da solo, ma non per ubriachezza o per droga, ma secondo me, cioè, io mentre che ascoltavo, cioè, avevo la sensazione che si stava addormentando mentre parlava. E secondo me probabilmente c'ha un problema, proprio una malattia, qualcosa nel cervello, che non gli arriva tanto ossigeno probabilmente. Che sai, questi Yankee come sono, no? Cioè, nel senso, mangi un hamburger, mangi una salsa barbecue. Ed è vero pure che noi vendiamo armi a tutti questi paesi. Sì, questo purtroppo è, diciamo, il lato oscuro di questa cosa, perché io dal punto di vista geopolitico la vedo in senso romantico, noi volemo bene a tutti, poi in realtà c'è la parte più oscura, quella che comunque l'Italia è un grandissimo produttore di armi standard e ad alta tecnologia, e un grosso venditore, insomma, no? Come giustamente mi è capitato di vedere un canale YouTube di un ragazzo bosniaco che è praticamente nato e cresciuto in Italia, e poi comunque verso i 20 anni, 25 anni è voluto tornare in Bosnia per provare a costruire qualcosa in quello che lui reputa essere il suo paese, anche se poi ringrazia l'Italia e tutto quanto, no? E lui, insomma, fa vedere che ci sono dei posti dove, dei boschi, dei campi o roba del genere, dove ci sono sti cartelli, ancora oggi c'è attenzione mine, cioè, quindi magari tu stai a correre per campo così, per divertirti, giocare a pallone con qualcuno, pum, schioppi, e sono tutte mine italiane quelle, quindi insomma questo non ce lo dimentichiamo mai, che purtroppo questi sono discorsi duri e complicati, insomma, sul quale, insomma, alla fine poi prima o poi dovremo parlarne e farne anche un po' attenzione, ma che è davvero? Ma è Lercio oppure è vera sta cosa? Perché da quello che avevo capito, praticamente Neil Young praticamente aveva detto a Spotify di levare tutti i podcast no vax, se no avrebbe levato, insomma, la sua musica dallo store praticamente, e invece dice niente, dice che è Spotify che gli leva le canzoni. Non so, vabbè, no, adesso ho visto la cosa che ha linkato Walter, poi magari me la leggo bene, insomma. Comunque volevo dire anche che subito dopo in questa trasmissione, ma lo trovate già disponibile ovviamente in download per i podcast, c'è una sorta di seconda parte di add-on alla puntata che è uscita martedì da The Nightmare. È molto breve, però insomma, diciamo che aggiunge, infatti eravamo indecisi, insomma, se metterlo come aggiunta della puntata oppure metterlo a parte, insomma, come parte 2, diciamo così, e quindi l'abbiamo messa come parte 2. Detto questo, vabbè, insomma, comunque avete capito, no? Che gli Stati Uniti, mossi dal senso della democrazia e della giustizia, ancora una volta al contrario di quello che ha fatto Trump, cioè questa è la cosa che che proprio non riescono a comprendere, capito? Cioè, Trump aveva capito e aveva intercettato il sentimento da quel punto di vista. Quando lui dice America first, non intende dire che l'America deve essere prima, ma che deve venire prima in ogni pensiero, in ogni contesto politico, no? E quindi giustamente lui ha ritirato gli Stati Uniti dal resto del mondo, quindi la sua partecipazione, il suo controllo, il suo contributo, con quello che ne consegue anche dal punto di vista del costo militare, no? Giustamente. E invece è arrivato Biden che subito ha fatto l'opposto, no? Cioè, nel senso, però giustamente Biden ha fatto lo stesso effetto che facevano i presidenti democratici, no? Quando vedono i sondaggi, porca puttana, qui non me votano neanche il 20% di quelli che mi hanno votato prima. Come fa? Guerra. Ma sta cosa non funziona più. E poi in ogni caso saranno pure cazzi dell'Ucraina di sapesse gestire i suoi rapporti con la Russia, perché per arrivare ai ferri corti con la Russia si vede che pure l'Ucraina il suo l'ha fatto. Quindi insomma, nella colpa generale che è di tutti, perché chiaramente la colpa è di tutti, non puoi sempre arrivare tu a fare l'arbitro quando la cosa ti riguarda, a far protettore degli europei, a sostenere una causa che non ti riguarda, perché ci sono tantissime altre cause nel resto del mondo che con il 10% delle risorse che investi per fare lo stronzo potresti aiutare popolazioni, stabilizzare nazioni, aiutare etnie. No, tu devi andare a fare lo stronzo perché sei un americano de merda e devi andare lì a romper cazzo ai russi. Questo è il discorso, giustamente, no? Perché già ci hanno messo una cifra a ristabilire un rapporto semi decente con i cinesi dopo il governo Trump, che lì veramente al cinese dimostro chiaro che cazzo se ne frega, quelli non è che hanno il senso morale che c'hanno noi, è totalmente diverso il modo in cui loro vivono, ci mettono di meno a spingere due bottoni, eh. Vabbè, comunque detto questo mi ripio un secondo e poi niente, non mi ripio perché ho finito i brani, perché ne ho messo uno doppio, mannaggia la miseria. Vabbè, allora famo così, guarda, tanto io mi sono scordato di quello che vi dovevo dire in aggiunta e avrei voluto leggervi, ma sapete che non sono capace a leggere in tempo reale e non essendoci un brano, però vedo insomma che avete partecipato, che vi è piaciuto, insomma è probabile, vabbè, insomma, via dicendo, insomma, ok, vabbè, dai, non voglio fare il Leo Varga una situazione che si impiccia per leggere i commenti, cerchiamo di mantenere un ritmo a questa trasmissione. Dunque ragazzi, allora io vi ringrazio, dopo vi ricordo che c'è questa puntata di Data Nightmare di Walter Vannini, questa sorta di add-on alla puntata che è uscita martedì, che è una puntata importante perché, visto che si è fatto un grande parlare dell'illegittimità della privacy di Google in Europa, diciamo ha dato una spiegazione più accurata e più dettagliata di quello che è un po' la situazione ed è interessante, comunque almeno chiarisce un po' l'aspetto, perché no, è illegale, no? C'è pure una sottile differenza tra essere illegale e essere illegittimo, poi dopo alla fine comunque cerchiamo insomma di fare il nostro meglio, anzi lui di fare il suo meglio per cercare di dare la corretta informazione. Per quanto riguarda Runtime Radio vi ricordo che questa sera come ultimo appuntamento della settimana alle ore 8, dalle ore 8 alle ore 8.30, 8.45 c'è le orazioni della sera con Walter Sbano, dovrebbe essere la puntata dedicata a un film, quindi la colonna sonora di un film, ma poi vediamo, insomma ce lo annuncerà sicuramente durante la giornata. E questa sera alle ore 21 c'è MDB Summer Radio, ritorna dopo tanto tempo con Alex Raccuglia e Roberto Marin e faranno la loro puntata, e quindi noi abbiamo lasciato praticamente noi di quando eravamo futuro lo spazio e ci spostiamo solo per questa volta il venerdì alle 21.30 con quando eravamo futuro, una puntata è la puntata finale dedicata alle sigle dei cartoni animati, non robottoni, adesso non ricordo bene, comunque insomma sapete che quando sono le puntate di Carlo sono le puntate delle sigle, insomma, perché visto, quindi un po' monotematico ultimamente. Ma poi io c'ho una puntata carina quando toccherà a me, c'ho una puntata carina, insomma sapete, io vado più a sfrugugliare sull'esperienza, no? Sui ricordi di quella che era la società e la cultura, insomma, dell'epoca. Detto questo, domani mattina invece c'è, torna Leo dalle 7 alle 8 con l'ultima puntata della settimana di Cosoli, insomma, il mattino all'ora in podcast. E tra l'altro domani anche lui dovrebbe fare la recensione di un film, un libro, una serie TV che ha visto, e quindi siamo curiosi, insomma, di sapere di che cosa si parlerà. Mentre sabato mattina invece dalle 8:30 alle 9:30 ci siamo io e Michela con il nostro crossover Disordinati Informati, Disordinati Informati con Book, Disordinati Infornati anche. Sarebbe bello. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto per essere stati qui con me. Voletevi bene, ma soprattutto ricordatevi che sono tutti un po' stronzi, e quindi buongiorno un cazzo anche a loro.